Di Simon Signoret, Addio Valodia. Prima parte. Hanno assassinato Pietliura. Non c'era stato il folklore del primo incontro. Non si erano mai incontrati dal momento che si erano sempre conosciuti. Semplicemente lei era arrivata un po' dopo di lui, ma la prima uscita in città, sotto il sole della sua prima primavera parigina di bambina ebrea polacca, Zazà l'aveva fatta nella carrozzina di Maurice, che già trotterellava. Lui era un Gutmann, Maurice, nato da Elia e da Sonia Gutmann, originari dei dintorni di Jytomyr, Ucraina. Una mattina del dicembre 1919, al secondo piano a sinistra di una casa di tre piani, al numero 58 della Rue de la Mare, nel ventesimo distretto di Parigi. Lei era Elsa, nata da Stepan e Olga Roginski, originari dei dintorni di Lublino, Polonia, una notte del marzo 1921, al secondo piano a destra di una casa di tre piani, al numero 58 della Rue de la Mare, nel ventesimo distretto di Parigi. Bambino ebreo di Ucraina, bambina ebrea di Polonia, insieme avevano cessato di esserlo una sera del luglio 1925, quando i signori Gutmann e Roginski erano tornati a casa con i documenti di naturalizzazione così devotamente sperati. Con le lacrime agli occhi, i due uomini se li erano tirati fuori di tasca e li avevano presentati alle signore Gutmann e Roginski, che erano cadute singhiozzando nelle braccia l'una dell'altra. I documenti erano preziosamente rinchiusi in due portacarte di cinghiale color miele, fabbricati personalmente dal signor Gutmann, artigiano pellettiere in un laboratorio, fornitore di Lancel all'Opéra e di Bond Street nel Faubourg Saint-Honoré. I portacarte erano passati di mano in mano durante una festicciola improvvisata a cui si erano uniti i Löwenthal del terzo piano a destra, Isidor Barsky del terzo piano a sinistra e gli Stern del primo piano a destra. I Löwenthal e Isidor Barsky avevano confrontato i documenti nuovi fiammanti con quelli che loro avevano avuto la fortuna di ottenere 5 anni prima. C'è da dire che erano molto più anziani. Erano arrivati verso il 1905 e durante la guerra Wirzen, 18, la loro esistenza di apolidi non era stata precisamente facile. Solo gli Stern del primo piano non si erano mai curati di farsi naturalizzare, erano ebrei, religiosi, accessoriamente polacchi, e lo rimanevano. Molto chai per le signore, un po' di vodka per i signori, decisamente troppa per Isidor Sbarski, erano scorsi quella sera nei due appartamentini del secondo piano, le cui porte d'ingresso restavano sempre aperte sul pianerottolo comune. Mentre Maurice e Zazà, come tutte le sere d'estate, erano scesi a raggiungere la banda dei bambini del quartiere. Con tutto il tempo che ormai era passato, Elia Gutmann e Stepan Roginski, fuori di casa, riuscivano a cavarsela in francese. Soprattutto Elia, fin dal suo arrivo, era stato assunto dai fratelli Mercier, artigiani pellettieri, e nel suo laboratorio gli altri 5 compagni erano francesi. Per Stepan era più difficile, lui era riuscito a farsi assumere ancora prima di arrivare in Francia. Era stato il fratello Janek Roginski, artigiano pellicciaio in proprio in Rue d'Aboukir a Parigi, a farlo venire dalla Polonia. In Rue d'Aboukir tutti parlavano un po' di tutto, soprattutto Yiddish, tranne Janek che parlava francese e che ora veniva chiamato il signor Jean. Il signor Jean era sposato con Nicole Zetkin, che veniva chiamata la signora Jean, le rare volte in cui passava ancora dal laboratorio. Il suo socio era Roger Ziegler, che veniva chiamato il signor Ziegler, a sua volta sposato con Lilian LeBlanc, che non veniva chiamata affatto, dato che non la si era mai vista in Rue d'Aboukir. Roginski e Ziegler erano associati all'insegna di Femina Prestige. Femina Prestige era specializzata nella confezione per donna e bambina con guarnizioni di pelliccia. Per la confezione donna e bambina con guarnizioni di pelliccia ci vogliono delle rifiniture. Una sera Stepan aveva portato a casa qualche colletto bianco da applicare sui paltoncini per bambina. Erano di coniglio, imitazione ermellino, e bisognava cucire gli occhi da entrambi i lati dei minuscoli musi. Aveva pensato che Olga, la moglie, lo avrebbe fatto benissimo e aveva visto giusto. Olga aveva chiamato Sonia, la moglie di Elia, per farle vedere le bestioline e i loro occhietti, e fu così che a partire dal 1923 le signore Roginski e Gutmann diventarono rifinitrici a domicilio, dapprima occasionali quando femmina prestige era nei periodi di punta, poi a poco professioniste a tempo pieno. Le pezze di cotone nero annodate ai quattro angoli arrivavano piene la mattina e se ne ritornavano piene la sera. Piene, secondo le stagioni, oltre che secondo i cambiamenti della moda, di volpi defunte alle quali Sonia e Olga avevano restituito la vista, di sciarpette di talpa alle quali avevano cucito delle catenelle e dei grossi ganci foderati di similseta. Una volta, una sola, in una delle due pezze avevano trovato una cappa di vero zibellino e una fodera di taftà mordorè che dovevano cucire. Avrebbero ignorato a lungo a chi era destinata. Comunque sia, erano rifinitrici a domicilio. La qualcosa significava appunto che restavano tutto il giorno in casa e parlavano solo tra di loro e in Yiddish. Tornati a casa, i signori Gutmann e Roginski, che fuori in francese se la cavavano, riprendevano il Yiddish, al quale le signore Gutmann e Roginski rispondevano in Yiddish e i figli sempre più spesso in francese. Poi venne il tempo in cui i figli, non contenti di rispondere in francese, smisero anche di fare domande in Yiddish. I padri si sforzavano di mostrarsi all'altezza delle domande, le madri sospiravano e, eliminate dalle discussioni interessanti, si prendevano la rivincita in occasione dei morbilli e delle pertossi che Maurice e Zazà naturalmente ebbero insieme. Sonia Gutmann e Olga Roginski non potevano fare progressi in francese. Soprattutto Olga, la più giovane. Sonia lo parlava un pochino, ma incomparabilmente meno bene della signora Löwenthal, del terzo piano a destra, che era la più vecchia. Fin dal suo arrivo in Francia, Sonia Gutmann aveva preso l'abitudine di chiamare in aiuto la signora Löwenthal quando, per esempio, l'impiegato del gas veniva a fare la lettura del contatore o quando Maurice, ancora in culla, era troppo raffreddato perché lei potesse andare a fare la spesa. A poco, che Maurice fosse raffreddato o meno, era invalsa l'abitudine che la signora Löwenthal si incaricasse di fare la spesa in Rue de la Mare e in Rue des Pyrénées, dove la sua massiccia figura era popolare non meno che temuta. La signora Löwenthal sapeva quello che voleva e soprattutto quello che non voleva. Non era certo a lei che si poteva rifilare una lattuga un po' appassita o un pollo senza ventriglio. Per semplificare le cose, la signora Löwenthal faceva la spesa all'ingrosso, obbedendo unicamente alla propria ispirazione. Si mangiava quindi dai Gutmann quello che si mangiava dai Löwenthal e per estensione, quando i Roginski arrivarono nella stessa casa, si mangiava anche dai Roginski quello che si mangiava dai Gutmann e dai Löwenthal. A variare erano solo i gradi di cottura, i condimenti e le salse che la signora Löwenthal lasciava all'inventiva o alla memoria culinaria di Olga e di Sonia, le quali dovevano abbandonare i loro sogni segreti di pesce o scaloppine ripiene quando la signora Löwenthal portava a casa il manzo in offerta speciale. Capitava anche che con un po' di paprika in più o in meno si mangiasse lo stesso identico piatto dai Löwenthal, dai Gutmann e dai Roginski. Erano i giorni in cui la signora Löwenthal si era svegliata con l'anima dello chef, come diceva lei, e si metteva in cucina. Nei piccoli appartamenti del secondo piano comparivano allora senza preavviso marmitte piene delle specialità del suo paese. La signora Löwenthal era di origine ungherese, al posto delle derrate allo stato bruto. «Assaggiatemi questo», diceva prima di eclissarsi come un amico che viene a deporre un dolce di compleanno per un pranzo di famiglia al quale non è stato invitato. Sonia e Olga vivevano nel vago terrore del regime imposto dalla signora Löwenthal, che la sua anzianità nel quartiere e la qualità di cittadina francese autorizzavano a mostrarsi un tantino autoritaria. Guardavano i figli crescere e calcolavano che presto sarebbero stati in grado di andare a fare la spesa. Ma quella sera, la sera della naturalizzazione, non calcolarono un bel niente. Tutti sorridevano, anche la signora Löwenthal e soprattutto il signor Löwenthal. Ma il signor Löwenthal non la smetteva mai di sorridere, così evitava di parlare. Non si sapeva esattamente se parlasse francese, yiddish o ungherese, dato che le occasioni di esprimersi gli venivano troppo parcamente elargite dalla sua signora e padrona, o erano poco consigliabili sul posto di lavoro. Il signor Loventhal era lucidatore di diamanti. Quanto agli stern del primo piano, di solito così malinconici, si erano messi a canticchiare, aiutati dal goccio di vodka che Isidor Barsky li aveva obbligati a bere. Sfortunatamente la loro melopea in ebraico aveva vagamente rattristato i presenti finché non aveva fatto il suo ingresso il principe. Il principe Andrei Alexievich Gromov era in quell'assemblea una specie di tassello. Le ragioni che l'avevano indotto a raggiungere il suo reggimento imperiale nel 1905 non avevano niente in comune con quelle che avevano spinto a espatriare gli inquilini della casa. Le sue ragioni avevano più a che fare con i tappeti verdi del casinò che con le convulsioni della storia mondiale. Dopo vincite favolose e catastrofiche bancarotte, attualmente era artigiano autista di taxi. Residente all'Hotel de la Gare, al numero 42 della Rue de la Mare, e compagno di gioco di Isidore Barsky, con il quale intonò immediatamente Je sais que vous êtes jolie, accompagnandosi con la chitarra che non aveva dimenticato di portare. Alla festa mancavano solo i bonnet del primo piano a sinistra, di fronte agli Stern. Senza essere veramente xenofobi, i bonnet non amavano molto gli stranieri. Senza essere decisamente antisemiti, non amavano molto gli ebrei. Senza essere del tutto sciovinisti, detestavano i nuovi francesi, in particolare quelli di origine ebrea. Si erano quindi astenuti. D'altra parte, al signor Bonnet, impiegato al catasto del comune del 20° distretto, piaceva andare a letto presto. Era gassato di guerra. Dal momento che le finestre del secondo piano erano spalancate, probabilmente i rumori della celebrazione lo disturbavano. Il signor Bonnet aveva tossito più abbondantemente e più rumorosamente del solito, il che peraltro non aveva turbato i gemelli Bonnet, Charles e Lucien, che se n'erano andati a raggiungere Maurice, Zazà e gli altri bambini nella casa in demolizione al numero 21 della Rue Henri Chevreau, dove da 10 giorni si stava svolgendo una favolosa caccia al tesoro. Fu poco dopo quella calorosa serata in cui perfino la vecchia signora Lutz aveva lasciato la portineria per fare una breve apparizione, che un incidente apparentemente insignificante aveva scatenato una serie di avvenimenti del tutto imprevedibili. Una sera, che per l'ennesima volta si era ritrovato nel piatto un goulash alla Kolosvar che non poteva soffrire, Elia Gutman era andato su tutte le furie e aveva battuto il pugno sul tavolo. Alzando gli occhi al cielo, vale a dire in direzione del terzo piano, aveva urlato che non aveva lasciato il suo villaggio, attraversato mezza Europa, varcato a piedi 4 frontiere, né scelto la Francia come patria per soffrire a domicilio sotto lo stivale di un'autentica petliora. Aveva ripetuto la parola per ben 3 volte. Dopodiché, davanti alla moglie e al figlio costernati, aveva vuotato la sua porzione di goulash alla Kolosvar nella pattumiera e Sonia aveva pianto. Petliura non era stata una parola detta al vento. Maurice aveva trovato molto buffo quel termine ripetuto diverse volte, ma dato che in cucina c'era un gran vociare, sul momento non aveva osato fare domande. L'indomani mattina, però, raccontò a Zazà che c'era una petlura in casa. Non le poteva dire chi fosse, ma una petlura era una specie di fata carabossa molto cattiva e che puzzava. La sera stessa, poiché sua madre le rifiutava una seconda banana, Zazà la minacciò di andare a chiamare petlura e lo scandalo scoppiò al secondo piano, alla fine di una cena, fino a quel momento perfettamente tranquilla. Quando Olga andò a bussare alla porta dei vicini di Pianerottolo, chiamando a gran voce «Signora Gutman! Signora Gutman!» Ancora prima di aprire, Sonia sapeva già che c'era qualcosa che non andava. Loro, che in Yiddish si davano del tu e si chiamavano Olghina e Sonia Colomba mia, non si chiamavano signora Gutman e signora Roginski con tanto di voi francese, se non nei rarissimi momenti di disaccordo. La presenza del viso grave di Stepan accanto alla moglie confermò i suoi timori. Maurice fu spedito a giocare con Zazà dall'altra parte del pianerottolo e i quattro, Gutmann e Roginski, si sedettero intorno al tavolo di cucina. Fu Stepan a prendere la parola. Nel quartiere c'erano sicuramente dei malintenzionati che stavano preparando qualche guaio. La bambina aveva pronunciato il nome di Simon Vasilievich Pietliura e, nonostante il reciproco giuramento di tutti e quattro, non ci si poteva passar sopra. Bisognava agire e presto. Il giuramento era semplice, semplicistico addirittura. Risaliva all'incontro delle due giovani coppie. Lo aveva fatto prestare Sonia alla fine di una bella giornata di marzo, la prima domenica del loro vicinato, durante la quale si erano raccontati molte storie delle loro vite passate. Erano storie talmente simili e loro se ne stupivano talmente poco. Erano tutti e quattro nella cucina dei Gutmann, la finestra era aperta sulla Rue de la Mar, dove la domenica non succedeva mai niente. Era tutto così calmo, così quietamente rassicurante, così provincialmente parigino, che a un tratto Sonia, certamente poco ardita per natura, aveva alzato il bicchierino da liquore mezzo pieno di vodka che Elia aveva servito a lei e a Olga, mentre per sé e per Stepan ne aveva versato uno pieno e si era lanciata in un discorsetto a mezza voce. «Giuriamo!» aveva detto. E avevano giurato. Sarebbero stati dei giovani genitori colpiti da amnesia, se non altro davanti ai figli. Lo aveva detto additando la camera dove Maurice stava già dormendo nel suo lettino di ferro. E poi aveva toccato il ventre di Olga. Dal momento che si era in Francia si doveva dimenticare. O in ogni modo si sarebbe fatto finta. Avrebbero evitato di assomigliare ai loro genitori e ai loro nonni che al terrificante bagliore delle candele di sego avevano ripetuto a sazietà i particolari dei pogrom del loro tempo, paragonandoli a quelli precedenti ai quali erano sfuggiti e che li facevano tremare in attesa dell'inevitabile pogrom successivo. Ai loro figli avrebbero raccontato storie che cominciavano con «c'era una volta» e non con «l'ultima volta», il che non significava mai che quella era stata proprio l'ultima volta, ma la volta prima, quella di ieri, in attesa di quella di domani. Ecco! Sonia, confusa, si era presa il viso tra le mani. C'era stato un breve momento di silenzio, poi tutti e quattro si erano alzati e avevano suggellato il loro patto, baciandosi sulla bocca a labbra chiuse, e da 5 anni avevano mantenuto la parola. Non era stata una cosa di poco merito, attorniati come erano dagli Stern e dai Löwenthal, per non parlare degli abitanti di Rue de la Mar, che si compiacevano anche loro nell'evocare ricordi di giovinezza. Quando sentivano venire il pericolo, Sonia e Olga facevano in modo di allontanare i bambini, come si sa fare tanto bene nelle buone famiglie francesi, quando al momento della frutta l'incorreggibile zio Discolo Scapolo incallito blatera: «E quella della comunicanda la sapete?» In quei ricordi non c'erano comunicande, ma molte fanciulle violentate, molto sangue, molte urla umane mescolate ai nitriti dei cavalli, un'infinità di incendi, pedate, frustate, sibili di scudisci, luccichio di sciabole e litanie di gemiti. C'erano anche nomi di capibanda, nomi temuti, tramandati dalla notte dei tempi. Avevano consonanze diverse, a seconda di questa o quella parte dell'Europa centrale, dove avevano fatto dilagare le loro orde ubriache. Per un Gilles de Rais e una bestia del Gévaudan, l'animale mostruoso di cui si favoleggiava, apparso nel 1765 seminando terrore, punti di riferimento dei territori, dei terrori infantili francesi, si contavano decine e decine di nomi cosacchi, tartari, polacchi, ungheresi o ucraini, che tornavano continuamente in quei ricordi di giovinezza. I casi della storia volevano che, con l'aiuto di memorie ancora recenti, Elia, Sonia, Stepan e Olga potessero puntare il dito sullo stesso nome, quello del loro boia comune, Simon Vasilievich Pietliura, l'atamano che, dopo aver massacrato migliaia dei suoi concittadini ucraini tra il 1918 e il 1920, davanti all'avanzata dell'Armata Rossa, se n'era andato a massacrare migliaia di polacchi, in particolare nella regione di Lublino. In realtà era stato soprattutto per fuggire da Pietliura che i Gutmann erano fuggiti dall'Ucraina ed era stato soprattutto per fuggire da Pietliura che i Roginski erano fuggiti dalla Polonia. E questo non l'avevano mai raccontato ai figli. E ora ecco che Zazà aveva parlato di Pietlura. E se ne conosceva il nome, voleva dire che l'aveva già sentito. E se l'aveva già sentito, non poteva essere che per la strada. E se qualcuno l'aveva pronunciato per la strada, voleva dire che c'era un pogrom nell'aria di Parigi. Magari, perché no, Pietlura in persona a Parigi, arrivato nottetempo nel quartiere. Stepan aveva vuotato il sacco tutto in una volta, rivolgendosi insieme a Sonia, a Olga e a Elia. In un primo momento non capì perché, fin dalle prime parole, fin dal Simon Vasilievich P, il viso di Elia si fosse contratto come per effetto di un gran dolore, finché non era esplosa la risata più allegramente clamorosa che mai fosse risuonata al numero 58 di Rue de la Mare. Sonia, che era stata un po' più lenta di Elia a vedere il rapporto tra il goulash del giorno prima e l'imminenza di un pogrom, fu colta a sua volta da un riso irresistibile che a poco contagiò Olga, mentre Stepan, sempre serio, aspettava spiegazioni. Quando queste gli vennero fornite, tra un singulto e l'altro, e gli saltò agli occhi il burlesco della situazione, si associò agli altri in una risata tanto più omerica, in quanto si sentiva allontanare dalle viscere il vecchio terrore che credeva di aver dimenticato per sempre. Dopo che si furono calmati, si asciugarono gli occhi passandosi il canovaccio pulito che serviva a far risplendere i bicchieri. Elia ammise di avere un tantino esagerato. La signora Löwenthal proprio non se lo meritava. Ho trafatto, aggiungeva il suo mea culpa in Yiddish. Pensava di dire strafatto, nuovo termine che Maurice si era portato da scuola la settimana prima. Poi decisero che si doveva parlare ai bambini. Sonia, che se n'era incaricata, non ebbe da chiamarli sul pianerottolo perché arrivavano già di corsa per vedere cosa stesse succedendo di tanto divertente dai genitori. Papà aveva detto una sciocchezza ieri sera quando era in collera, aveva pronunciato una parola che non si doveva mai, mai ripetere. Era una parola volgare, beh, era il nome di qualcuno di molto cattivo e la signora Löwenthal era una signora molto, molto gentile. Mai, mai si doveva dire quella parola davanti a lei, né davanti a nessun altro. Era il nome di qualcuno di molto cattivo e che non esisteva. Beh, che non esisteva più. Ecco tutto. Era chiaro, no? Francamente no, pensarono i bambini, ma promisero di non farlo più e apparentemente se ne tornarono ai loro giochi. Solo apparentemente. Ci fu un lungo conciliabolo a bassa voce. Prima Zazà rimproverò a Maurice di non averle detto che la Pet Lura, la fata della casa, era la vecchia Löwenthal. Maurice l'ammise, un po' vergognoso. Poi decisero che bisognava trovarle un altro nome se non volevano buscarsi degli scapaccioni, ma un nome che sarebbero stati i soli a capire. Un segreto, insomma. Cercarono. L'idea di Pet Pet li sfiorò per un attimo, li fece sbellicare dalle risa. Poi trovarono il codice un po' troppo trasparente, naturalmente da Pet Pet fu ovvio passare a Prr Prr, che li fece sbellicare anche di più. Lo provarono per un bel po' e di colpo Zazà trovò Pue Pue, di cui furono soddisfatti pienamente. C'era di che, potevano perfino cantarlo, dato che lo stavano già cantando tutta la Francia, con la differenza però che quando loro avrebbero canticchiato «Lei mi fa Pue Pue, io le fo Pue Pue, ci si fa Pue Pue e poi siamo a posto». Incontrando la vecchia Löwenthal per le scale, sarebbero stati in soli in tutta la Francia a sapere esattamente quello che dicevano. Si erano inventati un duplice segreto. Quando i genitori li mandarono a letto, erano soddisfattissimi. Chi si sarebbe altamente stupito di tanta soddisfazione era quell'uomo solo che alla stessa ora stava bevendo il sesto cognac al banco del bar Tabacchi del quinto distretto che frequentava da qualche tempo. Mentre stava uscendo, il padrone gli disse: «Buonasera, signor Borì». E l'atamano Simon Vasilievich Pietlura se ne andò a dormire con passo tranquillo al numero 7 di Rue Thénard, nell'alberghetto per studenti, al terzo piano del quale si nascondeva dal 1921 a 10 minuti a volo di passero da Rue de la Mare. Se il giuramento dei genitori uscì consolidato dalla vicenda, il segreto dei bambini non tardò a essere divulgato. Già 2 giorni dopo lei mi fa puèpuè ampiamente canticchiato e fischiettato in Rue de la Mar, nell'ora in cui i bambini andavano a comprare il pane fresco e incontravano per l'appunto la signora Lowenthal e le sue sporte, vale a dire dopo la scuola e prima di pranzo. Dal momento che a tradire non era stato Maurice, non poteva essere stata che Zazà. Lei ammise di aver svelato la metà del segreto, in altri termini le parole e la musica da canticchiare nel caso che si incontrasse la signora Lowenthal. Sì, questo lo aveva detto durante la ricreazione a Miriam Goldberg. Ma dopotutto, fece notare a Maurice, era stata lei e non lui a trovare Puepue. Quanto all'origine e alla via seguita dalla vicenda, al passaggio da Pet Lora a Pet Pet e da Pet Pet a Pr Pr, no. Lo poteva giurare, non aveva rivelato niente a quella deficiente di Miriam Goldberg, ed era vero. E alla discrezione di Zazà c'era una ragione fondamentale, una ragione che non aveva niente a che vedere con la vivacità mentale di Miriam Goldberg. Zazà aveva semplicemente dimenticato il primo anello della catena. Ma non Maurice, il quale non aveva dimenticato niente di quella serata, né il viso serio di Stepan, né la sua estromissione dalla cucina, né le sequenze di sussurri avvertiti dall'altro lato del pianerottolo, né gli enormi scoppi di risa che erano seguiti, né, soprattutto, il viso di sua madre quando aveva sbrodolato quel discorso disordinato, contraddittorio, minaccioso, supplichevole e censurato al tempo stesso. Soprattutto censurato. Sua madre non aveva pronunciato una sola volta quel nome che proibiva a loro di pronunciare. Allora, anche sbellicandosi dalle risate un po' dopo con Zazà, mentre cercavano insieme un bel nomignolo sostitutivo, senza dirlo a lei e forse senza nemmeno saperlo lui stesso, si era ficcato in mente le 3 sillabe vietate. Vietate dai genitori che, lo sapeva bene, non avevano detto la verità, facendolo sentire beffato ed escluso. Escluso, nello stesso modo misterioso, di una notte in cui, sveglio nel letto di ferro che adesso gli aprivano tutte le sere nella stanza da pranzo laboratorio per le rifiniture, da quando non dormiva più nella camera dei genitori, aveva sentito attraverso la parete il padre e la madre parlarsi e sospirare, e insieme con delle voci rauche che non gli aveva mai sentito durante il giorno. La mattina non aveva fatto domande, ma ne aveva parlato con Zazà, la quale aveva affermato che a casa sua, a volte, sua madre aveva l'aria di piangere e anche suo padre, che avevano l'aria di star male, che tacevano di botto, che ridevano, senza che si sapesse perché, accompagnando la sua informazione con l'indice che ruotava sulla tempia destra, più eloquente di qualunque commento. Lui non gliene aveva mai riparlato, ma non per questo aveva dimenticato. Passarono i mesi e con essi passò la voga del puèpuè quando compariva la vecchia Lowenthal. Maurice se n'era stancato subito, probabilmente perché, essendo il solo detentore dei veri segreti delle origini del rito, gli piaceva poco vederlo celebrare da pappagalli non iniziati. Zazà, per fare come lui, smise a sua volta di canticchiare il ritornello e arrivò perfino a rimproverare a Miriam Goldberg di prendere in giro la signora Lowenthal, che era una signora molto gentile. Miriam Goldberg, che ammirava molto Zazà Roginski per la sua grande intimità con Moshe Gutman, era così che la nonna, la signora Goldberg del numero 48 di Rue de la Mar, si riferiva a Maurice, comunicò il messaggio della grande, grande gentilezza della signora Lowenthal a Ginot e a Samy Nussbaum del numero 32, i quali lo trasmisero ai Novak del numero 29 e ai Benedetti di Rue des Pyrénées. I gemelli Bonnet, che un tempo avevano fischiettato come tutti gli altri senza aver mai ricevuto nessuna confidenza, smisero quindi di fischiettarlo con tutti gli altri, senza che a loro fosse mai stata comunicata la buona novella della grande, grande gentilezza, tra virgolette, della signora Lowenthal, peraltro sempre chiamata dal signor Bonnet la giudea del terzo piano, probabilmente per distinguerla meglio dagli altri inquilini della casa. La casa in cui fra poco ci sarebbe stato qualcosa di nuovo, o meglio, qualcuno di nuovo.